Sangue freddo come un rettile, cannò proiettile. Vi lascerò sul corpo un segno indelebile. Il nostro flow sul fronte ti mitraglia. Un treno che deraglia ad alta velocità sulla tua centaglia. Sventaglia raffiche come l'M60. Santa sangue bagna il suolo del campo di battaglia. Il mio plotone scaglia bombe doppia H. La terra si spacca e schizza merda dalla placca. Torre di controllo bracca, figli di baldracca. Segno sopra il calcio del fucile un'altra tacca. Qui non si batte fiacca, guerra in zona invasa. Tabula rasa come la striscia a Gaza. Mi manda spesi a casa senza parata in plaza. Respiro napalm come un Viet Minh. Venite pure qui a dire che fate king. Vi lascio con il culo a terra come nei sit-in. Ti colpiamo a raffica con la rima automatica. Passa accendino e tanica, flusso corrente lavica. Abbiamo troppa pratica, troppa tattica, troppa carica. È troppa carica esplosiva, sulla tua testa un'ogiva. Ti colpiamo a raffica con la rima automatica. Passa accendino e tanica, flusso corrente lavica. Abbiamo troppa pratica, troppa tattica. Troppa carica, è troppa carica esplosiva. Sulla tua testa un'ogiva. Siamo all'alba di un nuovo giorno, ma in fondo non cambia l'etica. Immersi in questa giungla urbana, con la mimetica ci vedessi siamo verde iguana. Privi di estetica, riprese in corsa di una vita strana. Serve una steadicam, oh, la lingua atletica. E parlo in codice Morse. Sto 3 metri sopra il cielo, coi piedi dentro la Force, oh. 40 gradi addosso di stato alterato. E senti caldo quando passo col mio passo felpato. Quindi marcio soldato, troppo marcio soldato. Resto in piedi sul selciato, col fegato spappolato. Armato sul cemento armato, campo di concentramento. E in campo di concentramento centro più concentrato. Sono braccato ma il peggio mi sta di fronte. Per questo che mi esercito, l'esercito è sul fronte. Il sudore bagna la fronte, lascio impronte quando passo, riflessioni, no flessioni, spingo il mondo verso il basso. Ti colpiamo a raffica con la rima automatica. Passa accendino e tanica, flusso corrente lavica. Abbiamo troppa pratica, troppa tattica, troppa carica. È troppa carica esplosiva, sulla tua testa un'ogiva. Ti colpiamo a raffica con la rima automatica. Passa accendino e tanica, flusso corrente lavica. Abbiamo troppa pratica, troppa tattica, troppa carica. È troppa carica esplosiva, sulla tua testa un'ogiva.